i podcast di Rivista Militare, letti da Giulia Marrone. Marcello Soleri, un figlio del paese, un esempio da seguire. Carneade, chi era costui? La celebre domanda di Don Abbondio potrebbe, a malincuore ma realisticamente, interessare anche la figura di Marcello Soleri, 1882-1945. A porsi il quesito, per di più, non sarebbe solo un semplice curato di campagna, ma intere generazioni di suoi, molto più istruiti, connazionali. Oggigiorno, infatti, il nome di Soleri è stato avvolto dalla nebbia dell'oblio, immeritatamente. Fu un grande statista, nel senso pieno del termine, così come un eroico combattente nella Grande Guerra. In politica primeggiò in moltissimi settori, dall'economia alla difesa, sempre a disposizione del paese. Peraltro, non scese mai a patti con il fascismo, anzi ne fu fiero oppositore. Le radici del suo comportamento, onesto, schietto e cristallino, vanno individuate nell'educazione familiare. Il padre, Modesto Soleri, ingegnere capo, tirò su Marcello e il fratello maggiore Elvio secondo i più alti dettami risorgimentali. Amore per la patria, rettitudine, totale devozione per il servizio alle istituzioni e grande attenzione al sociale. Su questi parametri il giovane Soleri impostò il suo angolo di rotta e non lo abbandonò mai. Provarono a corromperlo in tutti i modi, con incarichi lusinghieri, con denaro, tanto, e finanche con il gentil sesso. Nulla lo deviò da ciò che sapeva essere giusto e necessario fare. La forte spinta civica lo indusse, già da giovanissimo avvocato, a competere nell'agone politico. La prima sfida fu l'elezione a sindaco nella sua città natale, Cuneo. Da quell'incarico, vero e proprio tirocinio nelle istituzioni statali, spiccò il volo. Nominato deputato in Parlamento, divenne allievo di Giovanni Giolitti, che ne percepì subito le vigorose potenzialità. Insomma, un giovane molto intelligente cui cedere il testimone dell'area del liberalismo. Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, Soleri confermò la posizione di stretto neutralismo del suo partito. Quando l'Italia, però, scese anch'essa in campo, non perse tempo. Non si trattò affatto di un voltafaccia o di un ripensamento. Urgeva servire la patria e partì volontario, quantunque onorevole, per il fronte. Non si imboscò, non ricorse al cosiddetto modulo 5, esentato, come, con coraggio e giustamente, rinfacciò a Farinacci quando questi lo accusò di non sapere nulla dell'animo nazionale. Per la cronaca, costui, interventista e tra i fondatori dei fasci di combattimento, fu esonerato dalla guerra per quasi tutta la sua durata. Soleri, invece, giurò da ufficiale degli Alpini e chiese di combattere in prima linea. Alle Penne Nere resterà legato fino alla fine, le conosceva e gli davano fiducia. Non a caso, da ministro della guerra nel fatidico 28 ottobre 1922, quando le lugubri nubi del fascismo si addensarono su Roma, volle avere nella capitale ben 5 battaglioni di alpini. Truppe fidate che sarebbero servite a rinforzare lo stato d'assedio di cui si riteneva imminente la dichiarazione. Al fronte, sui monti e in trincea, tenne un comportamento esemplare. Primo fra i primi, chiedeva ai suoi superiori di comandare di persona anche semplici pattuglie. Non sempre questo permesso gli veniva concesso. Era amato e rispettato dai suoi uomini. Non gradiva deferirli al tribunale per mancanze che poteva gestire da solo. Gli alpini lo ricambiavano con la fiducia, credevano in lui. Era coraggioso contro il nemico, ma non solo. Soleri, nelle sue memorie, ricorda un episodio occorsogli poco prima di essere ferito nell'assalto a Montevodice, nel corso della 10ª spallata. Raggiunta quota 656, la nostra artiglieria, postata sull'antistante Sabotino, galleria rigurgitante degli spettatori e di tifosi della battaglia, continuava a sparare sulla detta quota. Per evitare questo fuoco amico, non riuscendoci altri, Soleri si mise al telefono e volle parlare con il generale Badoglio. Gli chiese di spostare il fuoco fratricida, ma Badoglio continuava a esitare. Soleri non si perse d'animo. «Generale, se non ci crede, venga a vedere!» Si convinse infine. L'episodio però ha un curioso e forse anche amaro epilogo. Il generale, recatosi all'ospedale di Cividale in visita, gli fece pesare il fatto di aver lasciato impunita una tale risposta, solo perché veniva da lui. Non va sottaciuto che Soleri, sul Vodice, fu ferito gravemente. Una pallottola di mitragliatrice gli trapassò il petto perforandogli il polmone destro. Per quell'azione fu insignito della medaglia d'argento al valor militare e fu promosso capitano. Ebbe una lunga convalescenza, ma si riprese. Nuovamente domandò l'assegnazione al fronte. Lo accontentarono, ma un forte esaurimento lo stremò e lo costrinse a una lunga degenza a Cuneo, ove si ammalò pure di spagnola. Soleri, con il suo impegno militare, sapeva di dover compiere un preciso dovere, ma altresì pensava di dare un esempio. Per sua stessa ammissione si sbagliava. «Mille e mille esempi di abnegazione e di sacrificio io ricevetti da quegli umili alpini». Soleri non fu solo un combattente, ma fu anche un acuto osservatore di quella guerra. Un esempio per tutti fu il discorso pronunciato alla Camera il 28 novembre 1918 su Caporetto per denunciare la mancanza di comprensione dell'animo del soldato da parte dei comandi. In quei giorni lamentavo l'esempio di arrivismo che veniva dall'alto e l'ingiustizia nella distribuzione dei rischi. Deploravo che gli imboscamenti non potessero sradicarsi, che i turni di riposo per le truppe non fossero rispettati come si doveva, che le indennità speciali fossero date a tutti, tranne che ai soldati in trincea. Nei suoi giudizi fu severo, poté permetterselo perché fu ancor più intransigente con se stesso. Non a caso, nel primo dopoguerra gli fu assegnato un gravoso, per molti versi gramo, incarico. Sottosegretario e poi alto commissario agli approvvigionamenti. Le motivazioni che addussero alla scelta del suo nome sono ben spiegate dal suo biografo ufficiale Raimondo Collino Pansa. Anzitutto si impose per l'onestà adamantina, divenuta proverbiale, con cui si accinse a difendere lo Stato dagli avventurieri che lo circuivano nel settore che vedeva svolgersi trattative, acquisti, forniture per centinaia di milioni. Fu costretto a scelte impopolari, ma necessarie come talune amare medicine. Infatti, per risanare le finanze dello Stato era indispensabile superare il prezzo politico del pane. Si pensi che il pane costava così poco che gli allevatori compravano il grano per l'alimentazione del bestiame. Sul tema, sua l'espressione: «Noi dobbiamo dare al pane la dignità a cui ha diritto». Fu una battaglia lunga, ma alla fine di quel disegno fu legge Soleri numero 145 del 27 febbraio 1921. Anche in questo caso, però, gli insegnamenti paterni non furono dimenticati e l'attenzione a chi veramente fosse in difficoltà fu garantita con compensazioni. Infatti furono previsti sconti del 20% da applicarsi da parte dei consorzi agricoli per la confezione di pane popolare, quella in grosse forme. Dopo un breve periodo da ministro delle finanze nel governo di Ivano Bonomi, sotto quello di Luigi Facta gli fu affidato il Ministero della Guerra, 1 agosto, 31 ottobre 1922. Accettò l'incarico con un cruccio scolpito in testa. «Ho due grosse cose da mettere a posto, l'atteggiamento dell'esercito di fronte ai fascisti e l'ordinamento di pace da fare». La sua corrispondenza con i comandanti di corpo d'armata è indicativa della ferma posizione nei confronti dei fascisti. In particolare, il 26 ottobre 1922, così scriveva ai comandanti: «Da varie parti vengono segnalati indizi di un prossimo movimento insurrezionale diretto ad impadronirsi con mezzi violenti dei poteri dello Stato. Ho la certezza che nessun elemento militare potrà aderire a tale movimento, infrangendo essenziali doveri, giuramento militare, eliminare qualsiasi diversa convinzione, prendere pronte esemplari sanzioni». A difesa di Roma fu posto il generale Pugliese, cui diede l'ordine di sbarrare gli accessi alla capitale, stradali e ferroviari. Uomini e mezzi, insomma, non difettarono. Le misure adottate e l'intenzione di dichiarare lo stato d'assedio furono, di per sé, sufficienti a far desistere molte colonne di camicie nere in marcia verso Roma. Il decreto per lo stato d'assedio fu redatto nella notte del 27 sul 28 ottobre e terminato alle 6 di mattina con lo scopo di impedire con tutti i mezzi l'occupazione di Roma e dei pubblici poteri da parte dei fascisti. Il finale è noto. Il re non firmò la dichiarazione, anzi incaricò Mussolini della formazione del nuovo governo. Il posto di Soleri fu preso dal generale Diaz. Il 27 giugno del 1924, in seguito alla scomparsa dell'onorevole Giacomo Matteotti, la maggioranza dei partiti iniziò la protesta, definita secessione dell'Aventino. Il Partito Liberale non partecipò, fu grazie a Soleri. Egli riuscì a convincere Giolitti della necessità di restare per far, quantomeno, sentire la propria voce. Non da ultimo, perché gli assenti hanno sempre torto. L'arena di Soleri fu il Parlamento, lì diede sempre battaglia. Memorabili le sue invettive che durarono finché, con il listone, il duce si liberò dell'opposizione. Gli anni dal 1930 al 1942 furono per Soleri una morta gora politica, un tempo squallido e vuoto. Si trattò quindi di un periodo completamente avulso dalla vita pubblica, come dal giornalismo diventato anch'esso totalitario. Solo con la caduta del fascismo Soleri si rianimò politicamente. Ricercato e tenuto sotto osservazione in Piemonte, regione sotto duro giogo nazifascista, fuggì a Roma. Trovò rifugio anche nel seminario pontificio di San Giovanni in Laterano. Visse sotto falsa identità con il suo nuovo nome, Santi Massimo Fu Giorgio. Cambiò abitazione 7-8 volte in 4 mesi. Fu un periodo difficile. La rinascita però si intravide nel giugno del 1944 con il primo ministero Bonomi che lo volle al tesoro. Tanto per cambiare, la situazione era disperata. Suo il compito di rimettere in sesto le finanze. Ripartì esattamente da dove aveva lasciato da commissario gli approvvigionamenti, ovvero dal prezzo politico del pane. Già gravemente ammalato, fece un ultimo magistrale discorso a Milano il 15 luglio 1945 per promuovere il prestito nazionale per la ricostruzione. 8 giorni prima di morire. Un vero e proprio testamento spirituale. Una sola cosa vi dico, ed è che tutti noi dobbiamo avere nel cuore una comune vibrazione, che tutti noi vorremmo essere nulla perché ritorni a essere tutto questa nostra Italia. Il 23 luglio Marcello Soleri si spense. Con lui la nazione perse un figlio, meraviglioso esempio di dedizione. I podcast di Rivista Militare, letti da Giulia Marrone.